later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli il tasto di avanti veloce non viene mai premuto, Cappa e Drago si tagliano i capelli. Fermo così? Piano però, eh. Fermo. Fermo. Ti faccio un bel taglio alla Human League, va bene? Cos'è il taglio alla Human League? Ma sì, dai, non ti ricordi di Filocchi? Di chi? Il cantante degli Human League, Filocchi. Don't you want me, baby? Bellissimo. Quello che aveva i capelli lunghi da un lato e cortissimi dall'altro. Certo. Ma per farmeli lunghi da un lato cosa fai? Mi metti dell'extension? Sì. A parte che adesso Filocchi è pelato, l'ho visto sul sito del Grande Fratello inglese, lui è uno dei commentatori ufficiali, un columnist. No, allora se è pelato ti faccio un taglio Asador. Un taglio Asador? Sì. Cos'è? È una specie di bistecca argentina. È tipo un gatto steso e stiracchiato lungo, capito? Ho capito, però allora preferisco il taglio alla Human League. Con l'extension? Con l'extension. Ok. Sì. Sì, però vabbè, per andare a tempo devi anche... No, ma stai attento. No, qui non devi tagliare troppo corto. Ma sei entrato in trance agonistica, no? Attenzione. Cappa! She was working as a waitress in a cocktail bar and never go far. Vabbè, se non lo sai, però sta fermo che sennò poi viene male. Aia! La fabbrica di polli! Ecco, dammi a me le forbici adesso, K, tocca a me. Adesso che io sono il cantante di Human League con l'extension, cosa posso fare io per te? Farti diventare tipo il cantante dei Bronski Beat? No, va bene. No. Perché? Jimmy Somerville no. Ah, perché? Era ma carino. No, ma scusa, no, ma io non sono biondo, dai, innanzitutto. Poi perché, dai, insomma. Cosa? Ma no, dai, niente, insomma. Non è che io abbia niente contro, però. Ma contro chi? Contro cosa? Di cosa stai parlando? Niente, dai, fammi un taglio diverso, dai. Allora, non so, alla trapianto di Elton John, va bene? No, ma scusa, se invece mi facessi un taglio da uno che va anche con le donne. Ah, vabbè. Non dico solo con le donne, non chiedo tanto, però uno che va anche con le donne. Piano. Aia! La fabbrica di polli. Allora, Tarek, e anche tu, Joao, venite qui. Allora, vi spiego un po' di cose perché io ho già capito che siete ignari di tutto, Tarek, per esempio, cosa mi rappresenta quel moicano che ti sei fatto in testa? Non ti bastava la crescita che avevi? No? Hai fatto il moicano? Ma tu lo sai che è stato il primo a portare i capelli così? E no che non lo sai, perché tu vedi un tamaro che gira col moicano e non sai che deriva tutto dal punk, dai crash, dall'hardcore californiano. Che non è mica l'hardcore quello delle donne nude, Oppure il taglio col ciuffone che avevi la settimana scorsa. Ma tu non lo sai che deriva dagli anni 50? E poi dei gruppi di rockabilly, Ma tu che ne sai degli anni 50 e dei rockabilly? Perché tutto quello che si vede in giro adesso deriva da qualcosa che è avvenuto tra il 1920 e il 1980, capito? Da un certo punto in poi si è sempre copiato qualcosa che è successo prima. E se non lo sapete, rischiate di non capire un accidente del mondo di oggi, Il mondo di oggi! Tarek, adesso mi fai il riassunto di quello che ho detto fino adesso. E allora? No, dimmi, di cosa ho parlato fino adesso? Caro pelle, come ti sei permesso di fare una palla con la nostra pelle, sulla nostra pelle? Adesso. E cari pesci, perché venite a galla per vedere questa bella palla fatta da pelle? Figlio di Apollo. lo so che un pollo mai siederà tra gli dei dell'Olimpo e mai farà una palla di pelle con la pelle di Apelle, perché un pollo per sempre il pollo resterà. Anonimato, Drago, no, fai finta di anonimato. Anonimato, con i capelli tagliati alla Franz Kafka, siamo perfettamente invisibili. Ah, ecco, ma questo taglio monastico che mi hai fatto all'ultimo momento è alla Franz Kafka? Monastico e anche mimetico, anche noi come lui. Anche noi come lui ci trasformeremo in uno scarafaggio con le zampette. No, anche noi come lui passeremo la nostra vita inosservati, salvo poi venire scoperti dopo la nostra morte. Ah, ti sembra una bella prospettiva. Vabbè, preferisci forse la gloria effimera della fabbrica di polli? Che poi devi fare mille reality show da vecchio per essere ancora ricordato da qualcuno. Ma dai, meglio crepare sconosciuti e arrivare dopo la gloria in peritura che vivere sempre nell'ansia di venire scordato. Beh, ma dipende, scusa, se in quei pochi giorni di gloria effimera mi succede di bere, sniffare, far porcate come non mai, e poi mi succede, ahimè, di morire, forse io sceglierei quest'ultima possibilità. Di morire. È morto. Salam a tutti, per frequenza sterca da Radio Rakhmanistan. Balloni. Ultima ora. Aeroporto di Rakhmanabad, preso d'assalto da scarafaggi, è chiuso a traffico per scivolamento continuo dei passeggeri su scarafaggi che coprivano tutti i pavimenti di aeroporto. Aperta subito inchiesta per scoprire il mandante di scarafaggi terroristi che ancora in questo preciso di momento hanno in mano aeroporto nazionale, e meno male che non hanno pensato di venire in sede da radio. Ma aiuto! Scarafaggi! Anche a radio! Schifo! La fabbrica di polli. Ehi, Pollo? Pollo in sbattimento. Allora. Ma chi siete? Ma come chi siamo? Dai, Pollo, Cappa e Drago. Io Cappa, lui Drago. Io Drago. Ah, siete voi? Sì. Allora scusatemi, però no, non vi avevo mica riconosciuto. Ah, visto Drago? Visto. Come? Funziona, come? Fai finta di niente. Siamo diventati così anonimi che nemmeno il Pollo ci riconosce. Se non fosse per la voce mi scambierei per Polli qualsiasi. Ma come per Polli qualsiasi? Ma voleva dire uomini qualsiasi. Se il vostro scopo è far perdere le vostre tracce, allora siete sulla buona strada. Certo, Pollo. Noi seguiamo la parola di Cristo. Leggiamo ogni mezzanotte, mezzanotte 10, insomma, un capitolo dell'imitazione di Cristo. Sì. Sono quattro libri, mica uno solo. E poi mettiamo in pratica i precetti che troviamo lì. Ma questa cos'è, un'altra setta? Ma come una setta? Crocettoni. Ma no, è una pratica che deriva dai monaci benedettini. Quindi... Vabbè, ma per me è tutta la stessa roba esoterica. Qual è roba esoterica? Qui siamo alle fonti della mistica da supermercato, tutta roba da bolla papale, altro che sette. Sì, comunque state attenti a non diventare ancora più anonimi, perché rischiate di diventare trasparenti. Vabbè, però scusa, l'imitazione di Cristo insegna proprio questo, insegna a sparire, a diventare niente. Altro che mistici, voi siete diventati due ciula, ve lo dico io. Sì, però niente, capito? Ciula ma niente. Ciula di niente. Che cosa succederà adesso? La trasformazione di Cappa e Drago da spirungoni rumorosi ad anonimi asceti si completerà in tempi rapidi? E se sì, a che cosa andranno incontro? Lo scoprirete dopo questo weekend a mezzanotte su Radio 3 con gli ultimi decisivi allestimenti de... Fabbrica di Polli, un programma di Cappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen, con Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Paolo Corsi, Giovanni Della Morte, Luca Gemma. La Fabbrica di Polli è trai.it, barlumen.com.